senza trucchi. Mi piace se li perdi tutti. Mi piaci anche senza nome. Mi piace quando non si dorme. Ti piace soltanto se appesa al tuo braccio, a fianco a te, il tuo oro e Cartier. Prendi pezzi di me, uno tira l'altro, ma io tengo l'ultima parte del puzzle. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Potrei pagare tutto, andare via. Gesto netto, addio e vaffanculo. Oh, oh, oh. Senza noi non siete niente. Senza noi voi siete perse. Ogni donna da sola vale. Ma ogni uomo fa da sé. Bene e male uguale prima o poi. Oh, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Se diventi killer, sai cos'è da dire, dille. Mi piace, anzi mi esalta la personalità tua, alfa. Dici che ogni certezza ci uccide, che l'uomo vive attraverso le sfide. Dici che sai che ti porterò i guai con la faccia da brava e il cuore per strada mi fai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Paghi tu per tutto e poi vai via. Oh, oh, oh. Senza noi non siete niente. Senza noi voi siete perse. Ogni donna da sola vale. Ma ogni uomo fa da oh, sé. Bene il male uguale prima o oh, poi oh, oh. Piano B è lo scenario tipico. Mi rincorri e con te non è stalking. Piano C è consumato il rito e senza fede la vita tua procede. Disertato nascondiglio e fatti guardare meglio. La gente pretende, vuole vedere la ragazza killer. Se io corro, tu mi segui. Se ritorno, ti risiedi. Io sono il mostro, tu mi hai creato. Un reato del cuore, il più grande peccato. Senza noi non siete niente. Senza noi voi siete perse. Ogni donna da sola vale. Ma ogni uomo fa da sé. Bene e male uguale.